English Bit di Giulia Crivelli. Turn away. Baselworld 2017. Officials say they turned away exhibitors to focus on quality over quantity. Mercoledì si è aperta a Basilea la più importante fiera annuale dell'orologeria d'Europa. Alla manifestazione, che si chiuderà giovedì prossimo, il 30 marzo, partecipano anche giornalisti di tutto il mondo e il Telegraph titolava Baselworld 2017, gli organizzatori, officials, false friend, dicono che hanno rifiutato degli espositori per concentrarsi sulla qualità invece che sulla quantità. Il motivo di quella che molti hanno visto come una excusatio non petita è che per l'edizione 2017 gli espositori sono 1300, 200 in meno rispetto ai 1500 dello scorso anno. La parola che ci interessa è il verbo to turn away, phrasal verb regolare, to turn away, turned away, turned away, che significa rifiutare, rimandare indietro, rispedire al mittente. Thousands of people were turned away from the stadium because it was full. Migliaia di persone fu rifiutato l'ingresso perché lo stadio era pieno. They had nowhere to stay, so I couldn't turn them away. Non avevano un posto dove stare, non potei negargli ospitalità, diremmo in italiano. Turn dà origine a molti altri phrasal verbs. To turn out vuol dire spesso che si viene a sapere qualcosa, che succede qualcosa di imprevisto. I didn't need the umbrella, as it turned out, because it didn't rain. Non ho avuto bisogno dell'ombrello alla fine, perché non ha piovuto. It turned out she was a spy. Si scoprì che era una spia. It turned out he had been cheating on her for years. Si venne a sapere che erano anni che lui la tradiva. To turn against significa ribellarsi, rivoltarsi. After the divorce, he tried to turn the children against their mother. Dopo il divorzio, cercò di mettere i figli contro la madre. To turn down significa declinare. He has been turned down for 2 jobs so far. Finora lo hanno respinto a 2 colloqui. She turned down the invitation to the movies. Declinò l'invito ad andare al cinema. To turn in vuol dire denunciare o denunciarsi. He decided to turn himself in, decise di costituirsi. She threatened to turn him to the police. Lo minacciò di denunciarlo alla polizia. Infine, to turn up significa saltar fuori, farsi trovare. Don't worry about the ring, I'm sure it will turn up. Non preoccuparti per l'anello, salterà fuori.